Nexta, viaggio nel nuovo contesto digitale di Pepe Moder. Quando pensiamo alla scuola italiana, la prima cosa che ci viene in mente è la vetustà dei programmi, insegnanti che non hanno voglia di lavorare, di fare il loro mestiere, programmi che non sono all'altezza delle aspettative delle aziende. Oggi siamo qui per raccontarvi esattamente il contrario. Ho ai nostri microfoni di Radio Next Verena Lopez, che è professoressa all'Istituto Onnicomprensivo Foscolo di Torino, professoressa di lettere. Buongiorno Verena. Buongiorno. E Federica Navoni, professoressa invece di matematica, sempre all'Istituto Onnicomprensivo Foscolo di Torino. Buongiorno Federica. Buongiorno. Voi vi chiederete perché sono qui. Beh, perché Verena Lopez è un Apple Distinguished Educator e Federica Navoni è un Google Certified Educator di secondo livello. Adesso ci facciamo spiegare da Verena e da Federica cosa significa. Verena, cosa significa fare il Certified Apple Distinguished Educator? Vuol dire entrare a far parte di una community di insegnanti di tutto il mondo che condividono buone pratiche innovative e cercano di mettere insieme, insomma, un nuovo modo di fare scuola, confrontandosi continuamente, cercando poi di diffonderlo tra i propri colleghi e anche attraverso azioni di formazione digitale online, quindi utilizzando canali come Twitter, ad esempio. Com'è nata questa appartenenza o questa esperienza? Noi utilizzavamo in classe la suite di Apple perché abbiamo degli iPad che avevamo comprato con un finanziamento PON. Allora, a un certo punto sono stata contattata da coloro che ci avevano venduto questi iPad, l'azienda, e mi hanno offerto di candidarmi a questo programma di Apple. Ho inviato la candidatura, ho ricevuto una risposta positiva, sono stata arruolata, così è cominciata questa avventura. E questa avventura dove è cominciata? È cominciata in Olanda, vicino Amsterdam. Abbiamo fatto 5 giorni di formazione immersiva. Formazione come si fa a scuola normalmente? Assolutamente no. Che tipo di formazione? Modello anglosassone, quindi okay. Tutto pianificato dalle 6:30 del mattino alla sera, con attività di team building prima e dopo ogni sessione di lavoro vero e proprio. La Quanti italiani c'erano? In tutto una trentina. Sì. Della nuova del Piemonte soltanto io. Quindi c'è un solo certified Apple in Piemonte e io ce l'ho di fronte. Sì, sì. E allora dopo devo fare l'autografo. Federica Navoni invece Google è l'altra parte, come dire, del mondo, no? Il sud del nord del mondo. Google Certified Educator 2, cosa significa? Significa essere a conoscenza di una serie di applicazioni relative alla Google Suite for Education e cercare di diffondere il verbo di Google e quindi di utilizzare queste applicazioni a scuola. Ecco, ma queste applicazioni che cosa servono? Perché il motore di ricerca, quando pensiamo a Google, pensiamo un po' al motore di ricerca, no? Sono applicazioni per la didattica, possono aiutare gli studenti con una classroom virtuale e gli insegnanti che, non utilizzando più la carta, possono inserire materiale, condividere materiale. Possono aiutare il dialogo con gli altri colleghi con dei drive condivisi in cui si possono caricare file da condividere, da compilare, evitando cartaceo, evitando perdite di tempo. Possono essere usati dagli studenti per fare delle presentazioni, dei video online a casa. Mi stai dicendo che fate fare presentazioni digitali ai vostri studenti? Assolutamente. Ragazzi di 11, 12, 13 anni? Assolutamente, anche in prima media riescono a fare dei prodotti veramente notevoli. Cari genitori, stiamo parlando di una scuola pubblica, quindi non stiamo parlando della scuola americana da 15.000 euro l'anno, ma di una scuola pubblica media di Torino, dove ci sono due insegnanti che hanno uno stipendio da insegnante, ahimè, le quali però si danno da fare per cercare di portare non solo all'interno della propria classe, ma anche all'interno delle classi di altri istituti, di altre scuole, questa esperienza per insegnare ai docenti, loro colleghi, come si fa a fare la scuola digitale, perché mi pare di capire dalla chiacchierata che stiamo facendo che in realtà i primi che dovrebbero imparare sono un po' i docenti, è vero Federica? Assolutamente, mi piace sempre dire chi non si forma si ferma, perché la formazione dovrebbe essere obbligatoria, dovrebbe essere il nostro istinto naturale, soprattutto nel mondo della scuola. Ma perché i docenti allora fanno così fatica ad abbracciare la digitalizzazione, Verena? Probabilmente abbandonare la comfort zone della tradizione è molto difficile. Inoltre la formazione implica anche un investimento notevole in termini di tempo, oltre che in termini di voglia. Dobbiamo smettere di essere pigri, cercare di innovarci continuamente per adattarci ai ragazzi, perché li dobbiamo preparare ad un futuro che è molto diverso da quello nel quale noi siamo cresciuti. Certo. E che già da adesso è molto tecnologico, figuriamoci tra 20 anni quando entreranno nel mondo del lavoro. E parliamo allora dell'inglese, che è una barriera mica per tutti, no? E tu quando sei andata in Olanda avevate le lezioni in italiano? Allora, i momenti di formazione erano divisi in tipologie di sessioni differenti. Le sessioni plenarie erano le uniche che offrivano la possibilità, ma soltanto agli italiani e agli spagnoli, di avere un traduttore simultaneo in cuffia. Tutti gli altri momenti individuali e in piccolo gruppo erano assolutamente in inglese. Ok, quindi fondamentalmente per poter abbracciare questa trasformazione l'inglese è fondamentale. È una competenza che ormai gli insegnanti non possono assolutamente sottovalutare, anzi devono possedere. E faccio la domanda a tutti e due, partendo da te Verena, in che cosa ti ha arricchito questa esperienza? Mi ha arricchito da tantissimi punti di vista, sia dal punto di vista proprio della competenza, che ho migliorato moltissimo nell'utilizzo di app di cui conoscevo soltanto una parte delle potenzialità, dal momento che ho avuto l'opportunità di formarmi a tu per tu proprio con gli sviluppatori di queste app, e poi mi ha arricchito dal punto di vista umano, aiutandomi a socializzare con dei colleghi con i quali ho creato dei progetti trasversali che sono internazionali. Stiamo mm-hmm. seguendo attualmente un progetto sull'empatia e l'uso di iPad per sviluppare l'empatia dei ragazzi attraverso l'accessibilità e la creatività, che sono le sue due armi più potenti. Straordinario. Con un'insegnante israeliana e un'insegnante sudafricana, quindi lavoriamo in parallelo, ci confrontiamo continuamente, stiamo mettendo a punto una pratica che poi speriamo di riuscire a diffondere. Federica? Sicuramente la possibilità di imparare cose nuove, quindi applicazioni nuove, mi ha permesso di migliorare il livello della didattica. Come lo vivono i ragazzi questo improvement? Benissimo, abbiamo fatto ieri sera i colloqui con i genitori e anche alla presenza di alcuni studenti ed erano veramente, abbiamo ricevuto moltissimi complimenti, sono totalmente d'accordo con la nostra impostazione e ci appoggiano. Ecco, quindi cari genitori che ci ascoltate in questo momento, siete voi ad essere i primi promotori e i motori del cambiamento, perché dovete chiedere, imporre alle vostre scuole pubbliche, continuo a ripeterlo, pubbliche, di adottare la digitalizzazione all'interno dei programmi e all'interno delle attività, che non significa cambiare il programma del MIUR, no? Vero, no, Verena? Assolutamente, noi integriamo perfettamente con didattica di tipo tradizionale la didattica digitale, si fa in maniera molto semplice, spesso vengono proprio dai ragazzi degli spunti di adattamento. Federica, si fanno anche compiti in classe con gli iPad? Assolutamente, facciamo le verifiche digitali che possono essere poi raggruppate nel Drive, quindi sono sempre condivise e vengono inviate ai ragazzi via mail. Quindi. Fantastico, e i docenti a questo punto hanno accesso a tutte queste risorse condivise per poter andare a vedere cosa hanno fatto gli studenti e come, corretto? Assolutamente, e ci sono anche dei report, Google Moduli permette di avere il report delle verifiche, delle domande, la quantità di domande non risposte, anche per modificare la mia didattica, quindi dire... Questa domanda non è stata di successo, di comunque successo. Non è stata utile esatto. o non è stata compresa, esatto. Non è stata efficace. Verena? La verifica digitalizzata consente anche agli studenti di fare meta-apprendimento. Cosa vuol dire? Che loro tornano a casa, hanno la copia della verifica corretta e possono riprendere gli argomenti su cui hanno sbagliato, quindi migliorare. Per cui poi l'apprendimento personalizzato che ci viene richiesto dalle ultime riforme, e che in realtà non è una vera innovazione ma che è difficile da mettere in pratica, grazie a questi mezzi è davvero una cosa fattibile. Difficoltà invece di applicarlo all'interno del parco docenti, perché ci sono conoscenze, competenze, skill e knowledge molto differenti. Però alcuni processi proprio operativi stanno cambiando, Federica, giusto? Nel momento in cui i colleghi si rendono conto della facilità dell'utilizzo di queste applicazioni, della comodità, del risparmio di tempo nelle questioni meno importanti, sì. diciamo, del nostro lavoro, anche i colleghi iniziano ad applicare e a formarsi su queste applicazioni. Come si fa a costruire, da dove si parte per costruire il percorso di digitalizzazione della scuola, di quello di cui ha bisogno la scuola, quali sono le attività che devono essere messe subito in pipeline? Beh, lo strumento del RAV, che è il piano di autovalutazione della scuola, un report che consente alle scuole di mettere per iscritto e notare i propri punti deboli e i propri punti di forza, già è uno strumento ottimo da cui partire. La digitalizzazione e la dematerializzazione aiutano moltissimo. Con esse gli strumenti di condivisione. Ci sono delle abitudini che sono cambiate nella vostra scuola grazie alla digitalizzazione, abitudini virtuose ovviamente. Per esempio la stesura dei piani didattici personalizzati per gli studenti con esigenze educative speciali, che adesso avviene tutta online tramite gli strumenti collaborativi offerti da Google. Poi abbiamo anche la stesura del piano uscite, della programmazione didattica curriculare, la creazione dei drive di dipartimento consente anche di scambiarsi delle informazioni e dei moduli formativi. Federica, che cosa significa insegnare ad altri docenti in altre scuole l'utilizzo di queste didattiche? L'obiettivo è cercare di diffondere queste didattiche il più possibile, facendo capire ai colleghi l'importanza dell'utilizzo di queste. Voi fate anche delle verifiche poi a valle per capire, per valutare se effettivamente i docenti che avete formato hanno interiorizzato e quindi utilizzano, oppure poi sono un po', come dire, lasciati al loro autoapprendimento, al loro percorso di autoapprendimento? Si preferisce lasciare al loro autoapprendimento perché viene sempre vista la formazione tra pari, non è mai apprezzata. Ho capito. E per quanto riguarda invece le attività di Apple? Quello che noto è che gli insegnanti che vengono alle formazioni si dividono in due categorie. Quelli che vengono perché sono stati costretti e sono quelli che poi non senti mai più. E quelli invece che vengono perché vogliono imparare e quindi sono quelli con cui rimani in contatto, con cui continui a condividere, si creano delle belle relazioni. Ma è un problema generazionale o un problema culturale? O tutti e due o nessuno dei due? Qual è il problema? Secondo me è culturale. Però questi strumenti li utilizziamo tutti i giorni noi, da utente, da persona che cammina per la strada, sul marciapiede. WhatsApp io lo utilizzo. Perché non utilizzare una chat condivisa in classe o tra i docenti? Perché non utilizzare gli stessi strumenti che utilizzano nella vita quotidiana personale per migliorare le mie potenzialità di docente nei confronti degli studenti che sono, come dire, i miei clienti a tutti gli effetti? Ci sono due ordini di obiezioni, secondo me, per la mia esperienza. Sì. Una è proprio a livello concettuale, una presa di posizione a prioristica che intende mantenere e relegare la scuola alla tradizione. E quindi è una presa di posizione, diciamo, molto italiana, molto classicistica. Io, pur avendo una formazione umanistica classicista, assolutamente insegnando lettere, tuttavia mi sono molto avvantaggiata dall'utilizzo di questi strumenti. Ho notato che su di me mi hanno fatto proprio un effetto più creativo, sono più creativa anch'io nel proporre le lezioni. Beh, la scuola dovrebbe essere maestra di vita e quindi dovrebbe preparare le persone ad entrare nel mondo della vita. E lì subentra quello, la seconda cosa a cui pensavo prima quando mi hai fatto la domanda, il concetto della formazione permanente, che è lì è una questione di mentalità. Questo l'insegnante però non deve mai smettere di imparare. Ha maggior ragione l'insegnante se, come dire, fa dell'insegnamento la sua professione. Il tuo punto di vista, Federica? Condivido le parole della collega. È un blocco non appunto generazionale, perché ho dei colleghi che mi chiedono: mi rispieghi questo pezzo, mi rispieghi come si fa questa presentazione. Quindi non dipende dall'età? No. Ma no, dipende proprio dalla chiusura. Ma poi voi vi siete resi conto se per caso poi al di fuori della scuola questi sono super digitali oppure sono proprio, come dire, degli ipovedenti del mondo dei bit? Di sicuro sanno usare WhatsApp perché mandano le catene di Sant'Antonio. Va bene, questa diciamo che è, come dire, è una piccola ciliegina sulla peperonata. Allora, io vorrei ringraziare Federica Navoni e Verena Lopez, docente di matematica e docente di lettere dell'Istituto Unicomprensivo Foscolo di Torino. Ad ambedue grazie per essere venute con noi e per averci dato uno squarcio, una visione di speranza su un mondo che meriterebbe molta più attenzione, molta più cura e che, grazie a persone come voi, sta cercando di emergere un pochino da quella classicità che non sta aiutando i nostri studenti a diventare così bravi come invece sono valutati all'estero studenti di altri paesi. Grazie ancora. Grazie a voi. E con queste parole abbiamo concluso la nostra intervista oggi dedicata alla scuola. Io sono Pepe Moder, ringrazio dall'altra parte del vetro Johnny Wishbone che ci ha aiutato anche questa volta in regia. Ringrazio tutti voi per per essere stati con noi e vi do appuntamento o in podcast da lunedì oppure la prossima settimana per una nuova puntata di Radio Next. Un saluto ancora da Pepe Modena.